Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Santi numi, mi verrebbe da dire, alla fine di questa settimana, una settimana ricchissima, pazzescamente, di notizie, di fatti, soprattutto negli ultimi giorni, quanti se ne sono concentrati. Dunque, visto che il mio scopo con voi al fine della settimana è quello di commentare le notizie della settimana, non so sinceramente da dove iniziare. Ci sarebbero naturalmente le due o tre notizie principali, un po' banalmente, però pensateci voi, che cos'è che vorreste commentare, tornare a commentare, se avete già fatto durante la settimana con amici, colleghi, parenti, qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. Vi dico quindi da subito il numero verde che potete chiamare per fare dire le vostre libere opinioni in libera trasmissione, 800 24 00 24. Allora, vi dicevo, è un po' sotto gli occhi di tutti, insomma, il caso Ruby, se vogliamo tornare a riparlare dei guai giudiziari del Presidente del Consiglio, poi c'è l'importantissimo referendum che c'è stato per quanto riguarda la Fiat, lo stabilimento storico di Mirafiori. Sapete che ha vinto il 54%, col 54%, una svolta storica da qualsiasi punto la si voglia vedere, ognuno naturalmente e ovviamente dal proprio punto di vista. Poi la questione del legittimo impedimento, anche la Tunisia per quanto riguarda l'estero, i guai terribili del Brasile per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Fra l'altro leggevo che persino l'impero romano è stato praticamente abbattuto, non soltanto, diciamo, da una decadenza degli stessi romani e dall'invasione dei barbari e tutto il resto, ma anche proprio da dei cambiamenti climatici. Leggevo ieri ci sono i paleoclimatologi addirittura che studiano quindi il clima di secoli e secoli e secoli fa. Ma che cosa ci conferma a proposito di clima, che non ci sono più le mezze stagioni? Non soltanto naturalmente i cambiamenti climatici, ma anche il fatto che ci sono cambiamenti dei segni zodiacali. Voi pensavate di essere dei pesci, invece siete dell'acquario, quindi sappiatelo che non ci sono neanche più queste certezze. È una ricerca, questa scientifica serissima, è stata pubblicata, se non sbaglio, su Science, adesso lo vado, dell'Università del Minnesota, dal Minnesota Planetarium Society. Che cosa spiega? Una notizia veramente eclatante di questi giorni: l'oscillazione dell'asse terrestre ha provocato un salto di un mese nell'allineamento delle stelle, quindi praticamente ogni segno si è spostato in avanti di un mese, quindi i segni zodiacali hanno traslocato, diciamo, dalle loro costellazioni di appartenenza. Il risultato qual è? Che appunto uno che si sente di un segno, si è creduto finora di un segno, ogni giorno guardarsi l'oroscopo a vedere dunque oggi cosa mi succede, invece ha sbagliato completamente. Che chi ci può aggiornare? C'è qualcosa che ci viene in aiuto, un sito che si chiama startribune.com, quindi se volete sapere a questo punto di che segno siete, e riprende questo studio appunto del Minnesota Planetarium Society. Secondo questa ricerca, qual è stato il fenomeno astrofisico? L'attrazione gravitazionale della Luna, facendo oscillare l'asse della Terra, ha provocato uno spostamento delle costellazioni nel corso dei secoli. Mica è successo ieri, però adesso lo hanno individuato in modo chiaro, inequivocabile. Le stelle si sono spostate di circa un mese. Pensate che hanno anche prodotto un nuovo segno zodiacale, si chiama Ofiuco, che mi sembra una parola napoletana, Ofiuco, come dire, Ofiuco, che abbraccia il periodo compreso dal 29 novembre al 17 dicembre. Ho scoperto di esserci anch'io in questo Ofiuco, sono del segno dell'Ofiuco. Poi non spiega bene che segno sia, che caratteristiche abbia, ma insomma cercherò di scoprirlo anche per voi. Questo che ci dice appunto che non ci sono più le mezze stagioni. Cosa ci dice invece? Che continuano ad esserci le mezze stagioni, perché i tempi cambiano, ma anche non cambiano, lo sapete, come ricordava il Gattopardo. Donne ammazzate anche questa settimana in Italia senza problema, ogni settimana 2-3 donne ammazzate da mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, un caso anche in Sardegna, un caso a Genova, stragi anche conseguenti. Come vedete, nulla cambia, quindi qualche certezza, diciamo, ce l'abbiamo nel silenzio generale. Molto bene, a questo punto, signore e signori, 800 24 00 24, direi di andare subito a scoprire chi è l'ospite di oggi. O meglio, come dico, l'opinionista estemporaneo oggi è Beppe Severgnini. Caro Beppe. Eccomi qua. Beppe Severgnini, c'è bisogno di presentazioni, ma più che giornalista, Beppe, più che editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini io potrei definirlo un esegeta. Posso definirti senza rischiare Sto pensando se sabato pomeriggio è legale definire qualcuno esegeta. Non so se è un orario protetto questo, ma comunque Beppe Severgnini tiene anche da tanto tempo questo forum Italians e ci racconta un po' a noi stessi, diciamo, ma ci racconta anche a noi stessi col suo ultimo libro Il capo di governo, l'uomo che da 16 anni, insomma, governa questo paese, la pancia degli italiani, Berlusconi spiegato ai posteri. Perché ai posteri? Pubblicato da Rizzoli. Beppe Severgnini spiega ai posteri, non tanto a noi, perché dice che noi ormai contemporanei, chi lo vive, il presidente Berlusconi da tanto tempo, ha la sua chiara opinione, o completamente negativa o completamente positiva, insomma ci sono gli schieramenti calcistici, quindi è inutile perdere tempo a spiegarlo a noi direttamente, no Beppe? Però tutti si è preso l'impegno come di lasciare una specie di eredità esegetica, appunto interpretativa, ai figli, a quelli che verranno dopo, perché forse la figura è complessa, bisognerebbe che spieghi, Beppe. Io sono davvero convinto che non si farà cambiare idea nessuno su Berlusconi. Sono altrettanto convinto che se tu non capisci Berlusconi non capisci l'Italia e gli italiani, su cui di fatto io ho scritto un lungo libro durato 20 anni, io ho scritto 12 libri in 20 anni, ma gira a giro ho sempre girato intorno a cercare di capire questo nostro paese, una volta come giochiamo, come tifiamo, come affrontiamo l'America, la lingua italiana, la lingua inglese, la vita domestica, e questo era un passaggio necessario, perché la politica e questo personaggio che ha dominato la vita pubblica italiana va capito, se no ti manca sempre qualcosa nella comprensione dell'Italia. Viceversa, se però non capisci l'Italia e gli italiani, tu Berlusconi non lo capisci. Infatti all'estero il sottotitolo che non c'è potrebbe essere, anche per gli stranieri, quando mi chiedono all'estero perché Berlusconi, ti chiedono, e io dico sempre il libro, guardate, di fatto si chiama Berlusconi Explained to Posterity and Friends Abroad, Berlusconi spiegato ai posteri e agli amici all'estero. Ah, ecco. Perché di fatto è un po' così, uscirà anche in altri paesi. Aggiungo, e poi mi fermo perché alla fine bisogna tenere un po' di ritmo, che le vicende di queste ultime ore sono sembra un cambiamento cada fagiolo. E quindi credo che io potrei anche andare a giocare a dama, perché tanto la promozione per il mio libro la fa lui, ma da quando è uscito? È uscito che il giorno fortunato del Bunga Bunga a fine ottobre, e quando io penso che ormai, insomma, il libro ha fatto, sta andando benissimo, ha venduto un sacco di copie, però i rilanci me li fa lui, e dico come mio esordio del pomeriggio, cara Roberta, che io volentieri venderei la metà delle copie a patto di vendere di vivere in un paese normale. Senti, secondo te Berlusconi l'ha letto il tuo libro? So che l'ha letto, perché è la fonte che me l'ha riferito. Intercettazioni. So anche cosa ha detto, ma non te lo dico neanche sotto tortura. No, quello è segreto, ma l'ha detto a te direttamente o l'ha detto a qualcuno che poi te l'ha riferito, che l'ha detto all'amico del... Io gli ho mandato una dedica a fine ottobre a Silvio Berlusconi, virgola, niente di personale, perché non lo era, in effetti, perché sono una persona educata, spero, e... Lui, parlando con una persona, hanno parlato del mio libro e questa persona me l'ha riferito, tutto qua. Senti, caro Beppe Severgnini, prima di andare su questi fatti pregni, diciamo, sui quali stanno chiamando anche le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, voglio esporre anche un'altra questione che riguarda il nostro paese di grande importanza. Allora, tu non so se sai che, visto che dici bisogna capire gli italiani, bisogna conoscere gli italiani, se uno che da sempre osserva il popolo italiano, tu sai che con la nuova Miss Italia entrerà la taglia 44. Cosa ti ha fatto pensare questa novità? Mi ha fatto pensare che la Miss Italia e Sanremo sono le sagre di paese, di un paese che si chiama Italia. Questo non è un commento, come si dice, snob, oppure snob o addirittura denigratorio, assolutamente, però bisogna prenderle come sono, cioè una sorta, siamo un grande paesone, cioè abbiamo le nostre due sagre annuali, quindi non bisogna neanche esagerare. Se poi mi fai una domanda diretta a un uomo in quanto maschio, ti devo dire che le ragazze sono sempre molto belle, ho sempre trovato che in giro per l'Italia ci sono ragazze forse più belle o più attraenti o più affascinanti, e quasi sempre il motivo è quello, sono ragazze che sono belle, sorridenti, formose, ben fatte, ma hanno anche dei corpi e non degli scheletri rivestiti, che è sempre un vantaggio. Io trovo le modelle, quando vado alle sfilate, sono le persone meno sexy del mondo, sono degli attaccapanni, cioè la la differenza è che si muovono da sole, gli attaccapanni stanno fermi. Io direi di chiamare subito le agenzie e dare alle agenzie questa dichiarazione di Beppe Severgnini. E intanto, Beppe, mentre tra poco daremo spazio alle telefonate delle ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, direi di collegarci anche con un altro pianeta per avere un altro punto di vista. Riflessioni da Marte. A volte qui da Marte, guardando il globo terracqueo e segnatamente l'italico stivale, ci si avvede di quanto a volte la sorte sia bizzarra. Per esempio, in Italia vengono cose stupefacenti che fanno capire che in fondo c'è una speranza per tutti, specie per alcuni, diciamo, vero, a dire il vero. Ricordate quella casa con vista Colosseo, capitata tra capo e collo al proprietario senza che sapesse chi gliel'avesse regalata, chi gliel'avesse pagata? Ebbene, ora impazza il bagno genovese che, ristrutturato naturalmente con i soldi dei contribuenti, vale quasi quanto un appartamento, anche se non si sa bene che vista abbia, all'insaputa però dell'utilizzatore finale. Sapete che da un po' l'Italia è il paese, diciamo, degli utilizzatori finali inconsapevoli. In questo caso è come se non solo la dea fosse bendata, no? La dea fortuna ovviamente, ma bendati anche gli stessi fortunati. Che paese bizzarro l'Italia, dove ogni tanto salta fuori qualche medico che, nostalgico dei giochi infantili, gioca all'allegro chirurgo. Avete in mente quella specie di improvvisata sala operatoria, no, per bambini, grande quanto un album da disegno, in cui ci si esercitava a togliere con una pinzetta al povero malcapitato frattaglie varie, no? Ce l'avete presente? Bene, dopo Paolo Bregamassone, primario della clinica Santa Rita di Milano, che toglieva seni e polmoni sani e inseriva protesi ortopediche di terza mano, all'allegro chirurgo giocava sino a pochi giorni fa anche Ignazio Massimo Civello, primario dell'ospedale di Ragusa. Volto pacioccolo, dovete vedere, una foto molto piacevole da buon padre di famiglia. Che cosa faceva? Terrorizzava i pazienti: attenzione, c'è un tumore qua, c'è delle metastasi là, con patologie inesistenti. E via Zac un'ovaia, via lo stomaco a un altro paziente, voilà, via l'unico rene funzionante, mandando in dialisi una paziente. Ragazzacci però, insomma. Qualcuno dice che si è persa la moralità in questo paese, eppure la bussola, che direzione prendere dunque? Ora che non si ha più neanche la certezza, l'avete sentito, del proprio segno zodiacale, almeno ci si sa orientare tra destra e sinistra. Una ricerca scientifica dell'Università del Nebraska giunge in immediato soccorso. Ebbene, secondo la ricerca, per capire se chi abbiamo davanti è una persona di idee politiche di destra o di sinistra può bastare un semplice test. Prendete appunti. Provate, dicono i ricercatori, a osservare dove il suo sguardo, lo sguardo di questa persona. Se voi puntate l'attenzione dei vostri occhi verso qualcosa, dove va il suo sguardo? Se chi vi sta di fronte guarda quello che osservano i vostri occhi, molto probabilmente, concludono i ricercatori, è di sinistra. Chi continua invece a fissare voi è verosimilmente di destra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mio pionista estemporaneo, sempre Beppe Severgnini, con il quale tra poco ricominciamo a parlare. 800 24 00 24. Chiedo a Giovanni da Napoli. Giovanni, dimmi solo il tema, la notizia della settimana. La Fiat e Macchione. Buongiorno a tutti. Quindi, il tuo pensiero, Giovanni? Io credo, sentendo alcune delle interviste fatte stamane per radio anche, di diversi operai o altro, che si mette in discussione una cosa che può sembrare ovvia, ma evidentemente non lo è. Cioè, Marchionne lavora per una società privata e quindi ha come suo primo obiettivo e dovere quello di portare avanti gli interessi della società. Se per adempiere a questo compito è costretto a spostare una fabbrica all'estero perché in Italia non è conveniente farlo, suo malgrado dovrà farlo, perché il suo obiettivo è quello di portare avanti gli interessi della società, che credo che la Fiat, come qualunque altra impresa o società, faccia le cose per avere un suo riscontro economico, un suo margine di contribuzione. Inutile che stiamo a dire, come sento spesso, cioè, ma non ha fatto, io non credo che stia lavorando per l'Italia, ma sta lavorando per loro, sta lavorando per la Fiat, non sta lavorando per l'Italia, tanto è vero che non è un impiegato pubblico, diciamo così. E questo è per quanto riguarda, insomma, alcune valutazioni fatte da diverse persone. Altro invece è che io credo... Giovanni, ma ti volevo chiedere, scusami se ti interrompo, sì. Ma ti volevo chiedere, quindi tu lo dici come, dato di fatto, naturalmente cerca di fare interessi della propria azienda, e quindi è giusto così, o tu dici fa questo ma? No, io credo che sia giusto che lui faccia gli interessi dell'azienda, certamente li deve fare nella maniera più lecita possibile, ma se oggi il mercato mette in condizione la Fiat o chi per esso di non riuscire a collocare il proprio prodotto perché i costi di realizzazione dell'articolo che vende sono maggiori di altre aziende competitor, cioè, secondo me è ovvio che per evitare un'agonia più lenta sia opportuno tagliare i tralci secchi, secondo me. D'altro canto è la storia di vita, è inutile, io non credo che nessuno dei signori operai o impiegati che dir si voglia sarebbero disposti a perdere la loro liquidazione piuttosto che pensione perché l'azienda è andata male, cioè i loro diritti rimangono fissi, quelli degli altri no. E siccome io credo che qualunque imprenditore mette in gioco se stessi solo ed unicamente se stesso e le proprie proprietà solo ed unicamente per poter guadagnare in maniera lecita, naturalmente. Chiarissimo, Giovanni, chiarissimo il tuo pensiero. Sentiamo se la pensa allo stesso modo Giusy da Milano. Giusy. Sì, ciao Roberta. Ciao, finalmente sono riuscita a parlarti. Ma, insomma, un terno all'otto riuscire a parlare qui all'inizio della prima stagione, ma provateci. Specie di vincita. Sì. Vai, Giusy. Allora, io sono in parte d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore Giovanni, prima. Sì. Però il fatto che quest'uomo si piglia tutti questi soldi, 3 milioni di euro fissi all'anno e in più... Quest'uomo è Marchionne. Come? Quest'uomo è Marchionne, intendi? Sì, è Marchionne, sì, scusa. E in più ha gli incentivi se i titoli vanno su, eccetera, in base è legato anche alla borsa, no? Ho sentito che dicevate così anche... nella trasmissione della Zanzara, eccetera, è una cosa inaudibile, cioè come si fa gente che lavorano lì alla Fiat guadagnare 1200-1300 euro e lui prendere tutti quei soldi, perché non li dividono un po' anche nel bene della gente che si fa un mazzo così per lavorare? Giusy, questa domanda io la rimbalzo subito a Beppe Severgnini. Beppe, può essere questa un'idea, quella giustamente, un super manager così capace, prende degli stipendi da favola, però forse diciamo i dividendi, se l'azienda va male, naturalmente i rischi devono ricadere un po' su di tutti, gli aspetti negativi, ma se va bene, forse diciamo che non solo gli azionisti, ma anche chi ci lavora, forse dovrebbe un po' beneficiare, diciamo, dei successi. Cosa dici, Beppe? Primo, un dato di fatto, io sento parlare di 3 milioni all'anno, stiamo parlando di ben altre cifre per Marchionne. Che credo anch'io, mi sembra un po' poco. La mia informazione, non vorrei dire una sciocchezza, correggetemi se sbaglio, ma credo che quella cifra stiamo parlando al mese, perché all'anno io ho letto cifre intorno ai 30 milioni di euro. Sì, anche a me dollari, sembrava, ma siccome non ce l'ho mente per cominciare. Questi sono argomenti scivolosi, se un uomo facesse andare avanti, facesse lavorare centinaia di migliaia di persone, funzionare, io non credo che gli stipendi debbano essere... Certo che in questo momento forse non era una notizia che faceva piacere a lui, però ho un'altra obiezione. No, ma quello di cercare i dividendi anche una volta che ci sono i successi di un'azienda. Ah, io sono d'accordo, è una proposta che ogni tanto la sinistra tira fuori, pure Veltroni recentemente, e in Germania, che è il paese che di fatto sta insegnando all'Europa come si fanno queste cose, da tempo questo sta funzionando. Io penso che l'idea che dello scontro come modo di relazione industriale è un'idea antica e che chi ci lavora debba condividere. Ecco, quindi la condivisione. Però la sinistra è terrorizzata di questa idea e diciamo che la destra è troppo pigra per lanciarla veramente in Italia. Sentiamo Roberto da Carpi. Sì, Roberto. Pronto, buonasera Roberta e buonasera a tutti, Roberto. Gli ascoltatori. Guardi, io su questo fatto della Fiat e del referendum non trovo, sono per il no. Io se fossi stato un operaio Fiat avrei votato no. Per tre motivi molto semplici. Il primo, non ritengo che sia conveniente per gli aumenti che hanno promesso, perché poi sono tutti sottoposti a un condizionale, se si vanno a leggere i documenti, per gli operai. Gli straordinari, sono gli straordinari. Sono già talmente bassi rispetto alla produttività che viene richiesta, rispetto alla comparazione che si può fare con gli altri paesi europei, che alla fine di un anno quello che gli dovrebbero dare in più, secondo me, è veramente molto poco rispetto a quello che viene chiesto. E il secondo punto è che queste relazioni industriali in questo modo sono veramente un disastro. Così le aziende come si fanno a governare? Io dico, esiste una contrattazione storica che è giusto che si modernizzi, che si vada anche a cambiare, però è estesa e viene impiegata a livello nazionale per i diversi settori. I latini usano il termine erga omnes, questo si usa anche in materia di diritto di lavoro, per estendere certi diritti minimi contrattuali che anche chi non è iscritto al sindacato poi si vede riconosciuto. Bene, ora cosa accade? La contrattazione collettiva non la si riconosce più, le fabbriche escono dalle confederazioni pur di fare quello che ritengono di voler fare nella massima libertà e autonomia, però poi quando questa nuova forma passa, allora la si vuole estendere a tutti quanti, e io questo non lo comprendo più. Sono stato abbastanza chiaro? Chiarissimo, Roberta? Sei stato chiarissimo, Roberto. E adesso vorrei allora sottoporre al mio opinionista estemporaneo, Beppe Severgnini, due, te li riassumo in modo molto compresso, gli editoriali, uno di Ezio Mauro, mi pare che sia di ieri su Repubblica, e un altro invece dell'8 gennaio di Giovanni Sartori sul Corriere. Proprio sono molto lunghi, cercherò di... Allora, Giovanni Sartori dice praticamente siamo arrivati al capolinea in Italia, la nostra disoccupazione è strutturale, non congiunturale, quindi non legata a un periodo, ma ormai è strutturale, visto che è dovuta alla delocazione del lavoro, e la jobless recovery, cioè dice una ripresa senza occupazione, deve stupire solo economisti rimasti indietro di decenni. In un mondo globalizzato il lavoro va dove costa meno. Lui praticamente dice, quindi Marchionne ha ragione a fare quello che fa, quello è il suo mestiere, deve salvare la Fiat, dice Marchionne, è un manager che va dove deve, fa quel che fa per salvare la sua azienda, mentre la FIOM è un sindacato reazionario e difende l'indifendibile. Mentre Ezio Mauro dice, d'accordo, i rischi e le debolezze della globalizzazione non devono assolutamente pesare solo sulle spalle dell'imprenditore, però dice forse si è persa un po' in Italia il senso politico-democratico del lavoro, dice che non è solo legato meramente allo stipendio, ma anche alla dignità che il lavoro dà, alla condivisione, alla partecipazione. La vera democrazia, dice, sta nel trovare una, come si può dire, una mediazione tra la modernizzazione e la solidarietà, e dice questo sta rischiando di mancare in Italia. Il problema collettivo, che deve essere quello del lavoro, si rischia di scaricare individualmente sui singoli lavoratori. Cosa ne pensi tu? Penso e rispondo anche a Giovanni, perché Giovanni, il nostro ascoltatore, di fatto ha la posizione di Vanni Sartori. Sì. La posizione è le industrie vanno a cercare a portare il lavoro dove costa meno, eccetera, eccetera. A tutti e due rispondo, uno è un nostro ascoltatore oggi e l'altro è un mio collega del Corriere della Sera, lui è un professore universitario, io faccio un altro mestiere ma scriviamo sul Corriere, e rispondo. Esiste anche la responsabilità sociale delle grandi industrie, e le grandi industrie nel momento delle difficoltà ricorrono allo Stato, e come? La Fiat è una lunga storia che non riguarda solo la Fiat, certo. Ma sarebbe sbagliato dimenticarsi quanto spesso e ha ricorso alla cassa integrazione, a incentivi, e allora quando va male chiedi aiuto allo Stato, quando va bene fai tu, sei tutto da solo, non va mica bene, e di fatto devo dar atto che Marchionne non ha mai sostenuto con una tesi così radicale, quindi stiamo attenti. Esiste la responsabilità sociale, che non vuol dire fare l'Unione Sovietica, ovvero produrre in perdita, ma esiste un equilibrio. Io credo che esista anche per i nostri due editori, per il Sole 24 Ore e il Corriere, per un signore che ha una fabbrica di vetro a Arezzo. Dico, chiunque dà lavoro a qualcuno ha una responsabilità che va un pochino al di là di fare quadrare i conti. Siamo far d'accordo. Quadrare i conti è fondamentale, però io credo che, per esempio, e qui è una cosa che ci tengo tantissimo a dire su questo tema, noi dobbiamo ricordarci che, adesso sorprendendo qualcuno, è una critica alla FIOM, la posizione che ha preso, che per esempio in un paese come l'Italia noi abbiamo una responsabilità sociale collettiva verso i ragazzi ai quali offriamo progettini, contrattini a progetto, non hanno i soldi né la possibilità di chiedere un mutuo in banca, e allora io penso che la mobilitazione nazionale vada fatta prima per queste categorie, di cui i sindacati si disinteressano quasi, e con tutto l'affetto e la stima, e so quanto è duro lavorare in una fabbrica e così via, però se i metalmeccanici su questo punto si aspettano la mobilitazione nazionale, direi che forse prima vengono un paio di generazioni che stiamo veramente trattando a pesce in faccia. E allora mi fai venire in mente questo editoriale di Famiglia Cristiana di questa settimana, Beppe Severgnini, che diceva non è un paese per giovani, durissimo editoriale, dove diceva che insomma adesso c'è voluto il saggio napolitano, il presidente, per far capire che i giovani nel suo discorso sono il nostro futuro, dopo averli massacrati, mentre testamento biologico, fine vita e quoziente familiare diventano strumento per accattare qualche voto in più, dice Famiglia Cristiana, per galleggiare comunque sui giovani, solo annunci e tante vuote promesse, è proprio pesantissimo, insomma, dice una generazione a cui è stato rubato il futuro. Però vorrei sentire ancora gli ascoltatori all'800 24 00 24, che stanno chiamando in grandissimo numero Giorgio De Luca. C'è Andrea da Pesaro. Ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione sulla notizia di Ruby e Berlusconi. Per me questa qui non è la notizia, per me la notizia è che la solita procura di Milano ha istruito di nuovo verso il solito noto personaggio della politica italiana, la solita istruttoria vessatoria a questo punto, perché io, al di là che come una la possa pensare, però la vera notizia è che da 14-16 anni, adesso non so fare i conti per bene, però c'è sempre una rossa, Ilda Boccassini, che sta dietro a ogni sospetto del Presidente del Consiglio. Cioè, per me la notizia vera è questa, anche perché poi io riflettevo fra me e me, ma se tanto mi dà tanto e per 16 anni nessuno ce l'ha sfangata su questa storia con Berlusconi, ma a questo punto non è meglio che le persone mandino avanti qualche un altro, un'altra procura, non so, quella di Monza, un'altra procura, altri colleghi. Cioè, insomma, io a questo punto mi farei anche furbo. Cioè, tu dici questi si sono fissati così la procura di Milano. Ma io penso, cioè, che alla fine io fossi in Berlusconi, andrei da Rita della Chiesa Forum e chiamerei davanti al giudice di pace la Ilda Boccassini per mobbing o per stalking, non lo so. Stiamo per vedere su Forum anche uno spettacolo del genere. Vedremo, Andrea, potrebbe essere un suggerimento, non è detto che non vada in porto. Comunque, fra le tante capitoli che introduce Beppe Severgnini, ci sono i vari fattori del perché Berlusconi piaccia tanto agli italiani, cioè il fattore Zelig, il fattore Harem, questo si può intuire immediatamente, il fattore Hoover, il fattore Robinson, il fattore Truman, e c'è anche per esempio il fattore umano, dentro il quale Beppe spiega che lui è il classico, per certi versi, italiano che vuole bene ai figli, parla della mamma, capisce di calcio, sa fare i soldi, ama le case nuove, detesta le regole, racconta le barzellette, dice le parolacce. Poi dice ha costruito la sua fortuna accreditandosi come un uomo che si è fatto da sé, poi ha costruito sulla sfiducia verso ciò che è condiviso, sull'insofferenza verso le regole, sulla soddisfazione intima del trovare una soluzione privata a un problema pubblico, eccetera eccetera. Però su questa e tra l'altro mi viene in mente da dire che il libro di Beppe non è uno dei 160 libri pubblicati in Italia ogni giorno. Pensate, secondo un'inchiesta, 160 libri in Italia ogni giorno vengono pubblicati, ognuno dei quali, quasi tutti, stanno giusto un mese sullo scaffale e poi spariscono. C'è una produzione infinita, non nel caso di Beppe Severgnini, non so tu cosa ne pensi, ma per non perderci, perché le notizie sono tantissime, gli ascoltatori anche, Beppe. Quindi di questo caso Ruby, visto che tu conosci e lo spieghi ai posteri, cosa spiegherai di questo caso? Io penso che la pancia degli italiani, che poi è il titolo del libro, è venuta fuori in maniera impeccabile nella commento di questo nostro ascoltatore di Ancona. Ancona, giusto? Sì. Se ci sta ancora ascoltando. Di Pesaro, vicino Ancona, sì. Io gli chiedo questo. Lui è già sicuro che tutte le accuse siano una montatura, oppure, seconda domanda, è interessato a sapere se il Presidente del Consiglio manteneva in case dove dava accomodato d'uso affitti a ragazzine allevate, portate a Mediaset, trattate, portate in casa, retribuite per le loro prestazioni? Questa è una domanda fondamentale. Noi pensiamo cosa succederà, sta già succedendo all'estero, e quando raccontano queste cose. Purtroppo in questa materia c'è un atteggiamento orrendo di tipo fideistico, in cui a sinistra sono già decisi che è colpevole prima di sapere cosa ha fatto, e a destra sono già convinti che è innocente, come il nostro ascoltatore, prima ancora di sapere. Questa vicenda ha delle caratteristiche nuove, e io cito un editorialista che non è del Corriere, ma è della Stampa, che è Michele Brambilla, che mi sembra che in tre righe abbia riassunto perfettamente il punto e la novità di questa faccenda. La novità, dice, è la straripante sicurezza ostentata dalla Procura di Milano. Mai si era visto un comunicato letto dal capo dell'ufficio così dettagliato, mai si erano annunciate prove documentali inconfutabili. Mai ci si era spinti a legare queste prove all'invito a comparire all'indagato, mai soprattutto una procura si era spinta a chiedere per Berlusconi il rito immediato. Siamo arrivati alla resa dei conti. Io lo dico a chi ci ascolta e lo votano, lo sopporta, eccetera. O se i magistrati hanno fatto tutto questo e non hanno prove e si rivelerà una, allora penso che sarà una botta terribile per la credibilità della magistratura. Ma se hanno le prove e proveranno che queste cose sono accadute, io penso che è una botta da cui Berlusconi potrebbe non risollevarsi. Uno può votare chi vuole, ma pensare che la vita di un uomo, di un leader politico, al di là di un'incoerenza pirotecnica fra le cose che si dicono, la famiglia, eccetera, ma questa non è un reato, l'incoerenza in Italia non è un reato, si dà. Ma se davvero ha fatto queste cose, io credo che, tra l'altro, stiamo parlando di una minorenne, quindi sono qui due reati, stiamo parlando di sfruttamento della prostituzione, stiamo parlando di una minorenne. Io penso che nessuno possa dire non mi interessa sapere se l'ha fatto o no, perché se lo dice, allora aveva ragione un grande giornalista americano, si chiama Ed Morrow, che era il protagonista di quel bel film Good Night and Good Luck, che disse una frase fantastica 50 anni fa, disse: talvolta le verità sono così nude che ci vergogniamo per loro e le copriamo. È una frase fantastica. Io non so se quello che è la verità o no. Dico soltanto che non dobbiamo avere paura ad arrivare stavolta alla verità. Possiamo uscirne di lì, Roberta. Questa volta non si scappa. Prima di passare a Marco da Forlì, a Livio della provincia di Verona, Alberto da Brescia e gli altri, qui chiedo ancora un attimo di pazienza. Allora, visto che sei del Corriere, naturalmente, Beppe, riprendo proprio dal Corriere di oggi questo articolo. Le 14 ragazze a Milano 2 per loro case e regali. E leggo proprio da qui, da quanto... Sarzanini, sì. Vivono tutte in un palazzo di Milano 2 trasformato in una sorta di quartier generale, ragazze bellissime, ricompensate con molti soldi e con abitazioni di lusso in uno degli stabili di via Olgettina 65, a due passi dall'ospedale San Raffaele, nel quartiere che lui stesso, cioè Berlusconi, ha creato negli anni 70. Appartamenti che Berlusconi ha ceduto in comodato d'uso alle ragazze, che poi ospitava le serate organizzate nella sua residenza di Arcore. È stata Rubi a raccontarlo nel suo interrogatorio del 3 agosto, e le verifiche effettuate dalla polizia hanno confermato che occuparsi di tutte loro era la consigliera regionale del PDL in Lombardia, Nicole Minetti, mentre alle spese provvedeva Giuseppe Spinelli, il ragioniere che secondo i magistrati era il fiduciario del presidente e risulta ricoprire vari ruoli in diverse società della holding. Alcune sono diventate famose partecipando a programmi e reality show di Mediaset, altre attendono la giusta occasione e intanto accettano con entusiasmo gli inviti del capo del governo. E poi va avanti. Marco da Forlì. Oh, che è successo? Sono io? Sì, ti sei sorpreso? Non credevi di... No, ti ho nominato. No, sì, no, io volevo parlare solo della Fiat. Sì. Mi sente? Ne hai diritto, ti sento benissimo, Marco. Vabbè, volevo parlare solo della Fiat. Mm. In quanto riguarda... Ti sento male, Marco. Non è che sei ancora lì un po'... Allora, aggiornata. Sì. Un attimo. Mi sente adesso? Sì, Marco, chiaro e forte, parla in modo deciso adesso. No, volevo solo dire una cosa, no? Io sono del sud, sì. In Terrone, Io so che a Melfi hanno fatto la fabbrica, quella che c'è a Melfi. In Sicilia, sì. Non so quanti miliardi hanno speso. Mm. Ci sono 1000 operai. Mm-hmm. Allora, questi 1000 operai, c'è stato un investimento di non so quanti miliardi. Sì. Ecco, però quella fabbrica è totalmente automatizzata e al 90% è stata pagata dallo Stato. Allora, lo Stato, che prende le tasse da noi, ha dato il 90% di tutti i miliardi, magari vi informate. Guarda, in questo momento non ho la possibilità, Marco, però ti ringrazio e passo subito a Francesco da Palermo. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io volevo rispondere a quel signore che poco fa parlava della Boccassini, sì. Magistrato che ha una vita che rende la vita infelice al signor Berlusconi. Mm. Ma una persona di 70 anni con una ragazzina di 17 anni e la gente che guarda e tutto, cosa devo dire io a mia figlia quando vede il telegiornale e sente che mia figlia ha 16 anni, che un signore a 70 anni va a letto con una ragazzina della sua età ed è poi il Presidente del Consiglio? Dico, non so, se la Boccassini ha sbagliato pagherà. Questo dico io, arrivederci. Grazie Francesco, di una sintesi straordinaria. Francesco Alberto da Brescia. Buongiorno. Buongiorno Alberto, però dovresti proprio spegnere la radio perché sei tutto rimbombo. Innanzitutto, viva la signora Boccassini. Mm. Poi vorrei chiedere a lei e al signor Severini, di cui leggo sempre le pagine, insomma, molto, secondo me molto bravo. Se io sono a conoscenza di qualche inquisito e in qualche modo lo favorisco, dico parlando male del magistrato, eccetera, eccetera, comunque se lo favorisco in qualche modo, anche se è solo inquisito, probabilmente arriverebbero qui i carabinieri a prendermi, eccetera, eccetera. Ora mi domando come mai tutti quelli che sostengono un inquisito, lasciamo stare chi, a loro non succede mai niente, i giornali che si scagliano. No, non lasciamo stare chi, se no parliamo così per metafora, Alberto, definiamo i termini. Cosa se parliamo della Boccassini? Mm. Se parliamo della Boccassini, evidentemente parliamo degli inquisiti di cui si parla oggi. Per cui, quindi stai parlando di Berlusconi? A me interessa il discorso generale più che il fatto specifico. Mm. Vorrei sapere come mai a qualcuno è dato né di presentarsi né quando è chiamato dalla magistratura. Sì. Ma soprattutto tutti quelli che, per esempio, il comunista Montanelli chiamava gli scherani. Il comunista Montanelli dovrebbe sapere chi sono. Mi sembrava comunista. Ecco, come mai io devo pagare o dovrei pagare e questa gente non paga mai? Tutti quelli che sostengono o si battono perché gli inquisiti la facciano franca. Se sono colpevoli, evidentemente. Mm. Grazie Alberto. Marcella dalla provincia di Venezia. Buonasera Roberta, mi scusi se faccio i complimenti che finalmente riesco a sentirla. Grazie, complimenti a te che ascolti la trasmissione. Volevo soltanto dire questo, che anche pensando a come Severini ci vede italiani, io sono un'italiana, sono una donna, sono una dipendente di un pubblico ufficio, quindi le ho e sono di sinistra, praticamente le ho tutte, non ho tutti i difetti possibili, tutti concentrati. L'unica cosa che ho, appunto, come pregio, è che non voto non penso che il nostro Presidente del Consiglio sia adatto a dare un indirizzo politico, amministrativo, ideale al nostro paese. Perché? Perché secondo me si è messo in politica per farsi un pacco di fattacci suoi e che tutti gli italiani, sia quelli che lo votano, sia quelli che non lo votano, lo abbiano da un certo punto di vista subito e non invece, non se lo meritano, ecco, tutto qua. Però Marcella, tu dici che se andassimo a elezioni anticipate vincerebbe o perderebbe Berlusconi, secondo te? Il problema è questo, che lui riesce programmaticamente o comunque è capace di propagandarsi bene. A un certo punto è stato un aziendalista, è stata una persona che ha tirato su una parte di lavoro, è bravissimo da questo punto di vista. Perché ci deve anche ammorbare con la politica? Perché deve giustificare il fatto di essere riuscito nella vita a dire benissimo, se io sono stato per l'Italia, sono stato un vanto e indubbiamente lo è, per cui vabbè, le televisioni, tutto quello che vuoi, perché deve togliere spazio ad altri che politicamente vorrebbero fare, magari anche facendo degli errori, magari bisticciando, tirando su. No, è chiarissimo, dice, Marcella, ecco. vedremo alle prossime elezioni un po' quale sarà il verdetto. Intanto, Beppe Severini, se vuoi commentare quello che dicevano gli ultimi ascoltatori, poi tra poco appuntamento con Spinoza.it. Beppe. Diciamo solo, ripeto, guardate che questa storia non è una storia come le altre. Questa qua ci perde la faccia o Berlusconi o i magistrati. Non c'è una terza soluzione. Ed eccolo l'appuntamento che aspettavate tutti con ansia. Dite di sì, insomma, così lo facciamo contento, lo gratifichiamo. In una settimana così densa di avvenimenti, ancora più di altre, così densa come tipo quella salsa, no, che a qualcuno piace sui maccheroni. A te piace più, Stefano Andreoli, più densa la salsa o quella un po' più acquosa quando mangi? Buongiorno, mangi. Dipende dal sapore, dipende sempre dal sapore. Certe salse vanno bene dense, certe ma altre. Tu che sei emiliano sarai un buon gustaio, no? Certo. Romagnolo. Romagnolo, scusa, per carità. Specifichiamo sti emiliani e romagnoli. Vabbè, non andiamo sull'argomento, ma dobbiamo andare su tanti altri argomenti della settimana con Stefano Andreoli, il fondatore, il creatore, altro che Julian Assange. Lui ha creato Spinoza.it e quindi ci facci una fotografia della settimana, caro Stefano. Che è successo? Quasi niente, cerchiamo un po' di parlare sui giornali. Notizia, Berlusconi indagato, questo è doveroso trattarla. Ghedini, raggiunto telefonicamente dai giornalisti, dichiara accuse risibili e strumentali. Ed era la segreteria di Ghedini, è incredibile perché oramai si è talmente allenato a dire questa frase che l'ha messo. Ah, dici che ha messo direttamente, vabbè, a volte si risparmia segreteria. Tempo. Dichiarazioni dell'europarlamentare leghista Borghezio, che ha dichiarato l'Abruzzo è un peso morto. E ancora non sa che esiste il Molise, qualcuno lo potrebbe avvisare e potrebbe capitare ancora peggio. Dici che di geografia insomma non se ne intende. Non so, Borghezio ha dichiarato tra l'altro, spero dagli abruzzesi uno scatto d'orgoglio, non so se gli conviene perché visto se come li sta trattando. Uno scatto potrebbe, dietro di lui penso che insomma sono tanti. Qualcosa. Caso Fiat chiaramente in primissimo piano, a Mirafiori sappiamo stella a 5 punte per Marchionne. È servita per evocarlo, molti hanno frainteso questa scritta su un muro di Mirafiori. Ai lavoratori Fiat vorrei dire una cosa: cosa sono 10 minuti di pausa in meno? Non è il caso di fare tutte queste storie, è il tempo che ci vuole per mettere in moto un appunto, non di più, quindi non attaccarsi. Non so se appunto io non ce l'ho, non so dire. A queste bazzecole. Una notizia più leggera: stop a primo e secondo nelle scuole materne. Sì, cioè, se buffa i bambini sono obesi. In molti asili arriva il piatto unico. La cosa più divertente è vederli litigare per averlo, un piatto unico. È proprio uno solo. Insomma, è uno sarà solo, quello si è capito. Questa cosa qui, oltre ad alleggerire diciamo questi problemi di obesità che possono sovente essere riscontrati nei bambini, riduce il tempo della pausa pranzo. Così dopo possono fumare con più calma. Sono già allenati, pensavo per il lavoro. Possono fumare con più calma. Chiudiamo con una notizia positiva, interessante. A Chernobyl, dopo molti anni della tragedia, tornano le piante, sono tornate le piante a Chernobyl. La prima è stata intervistata oggi e ha dichiarato che è tutto a posto e che è tutto regolare. Beh, se lo dice la pianta, ci possiamo salutarci. Va bene, caro Stefano, il tempo necessario è già finito, meno male, censuriamolo immediatamente. Grazie, caro. Ciao. Che fatica! E adesso continuiamo con le vostre telefonate 800 24 00 24, sempre mio opinionista estemporaneo di oggi, sono molto lusingata, Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, titolo del suo ultimo libro La pancia degli italiani, sottotitolo Berlusconi spiegato ai posteri, già un po' insomma ce l'ha spiegato. Al numero verde dicevo 800 24 00 24, ancora tanti ascoltatori, per esempio Gustavo da Varese. Gustavo? No, messo giù Gustavo, mi dico così, ma messo giù. Scusate, probabilmente la pazienza è scappata agli ascoltatori che sono davvero tanti in attesa. Direi allora, Beppe Severgnini, prima di sentire Valeria della Valle tra pochi istanti sulla parola che le voglio sottoporre questa settimana, cosa ne pensi della decisione del sindaco di Bari, Emiliano, di fotografare e denunciare, insomma, un po' tra virgolette, gli impiegati pubblici fannulloni, come è stato nel caso dei Netturbini, di cui ha pubblicato la foto mentre chiacchieravano su Facebook? Pensi che è una cosa... un rischio di caccia alle streghe, come scriveva Michele Serra, o è giusto? A me queste cose qui così spettacolari convincono sempre abbastanza poco. Io credo che in Italia bisogna riportare il codice Dostoevskij, che non è un aperitivo alla vodka, bensì delitto e castigo. Se la gente sbaglia, bisognerebbe essere un sistema in cui uno viene punito. Non è che se uno fa il fannullone deve essere fucilato, deve avere delle conseguenze. In Italia invece ormai, e lo dimostra dai massimi gradi del potere fino a chiunque di noi, e mi sembra che le vicende della settimana lo dimostrano, che di fatto il rapporto fra delitto e castigo è saltato, e non è certo con le fotografie, con le politiche sui giornali che si risolvono. Se tu in un paese normale hai un lavoro e non lo fai, hai delle conseguenze, magari è una punizione disciplinare, se è una cosa più grave è una cosa. In Italia tutto sì, sono grandi chiacchiere. A proposito di chiacchiere, andiamo dunque alle parole. Una parola che è impazzata praticamente questa settimana è referendum. Naturalmente, prima di tutto per il referendum che riguardava lo stabilimento storico di Mirafiori, ma anche la consulta che fra l'altro ha fatto passare, ha dato il via libera a due referendum sull'acqua, uno sul nucleare e uno anche relativo al legittimo impedimento. Adesso vedremo in base poi a quello che è stato deciso anche sul legittimo impedimento. Dunque, Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, mia linguista preferita, dimmi tu, referendum, che ti evoca? Allora, referendum, beh, intanto è un latinismo, tra l'altro la parola fu introdotta prima in Svizzera nel 1874 e poi solo nel 1894 nella lingua italiana, per indicare varie cose, cioè sia un voto popolare su una questione di interesse nazionale oppure, come nel caso ricordati, la consultazione a proposito della FIAT di una categoria di cittadini su una questione particolare. C'è una curiosità sulla parola, e cioè che al tempo del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quindi il referendum col quale i cittadini erano chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, uno dei nostri più grandi studiosi di lingua italiana, che Beppe Servignini conosce benissimo, cioè Bruno Migliorini, si rivolse a uno dei costituenti perché suggerisse all'assemblea di chiamarlo referendo invece di referendum, quindi italianizzato la parola, ma il costituente, di cui non sappiamo il nome, rispose che ormai era troppo tardi e che referendo, e qui viene un po' la cosa scherzosa, assomigliava troppo a reverendo infatti, per evocava, non rischiare di favorire una parte invece di un'altra, quindi una risposta scherzosa per scoraggiare la proposta di Migliorini, e così ci siamo tenuti il latinismo referendum, che oggi, da quello che sentiamo, leggiamo, ascoltiamo, è più vitale che mai. Grazie Valeria Della Valle. Grazie. Anche tu più vitale che mai per me e per noi. 800 24 00 24 ci sarebbe Doriano da Prato, al quale chiedo umilmente scusa, che è il primo degli ascoltatori che sono rimasti in attesa. Doriano, chiama la prossima volta, prossimo sabato come sempre dalle 14. Beppe Severgnini, invece, in conclusione, leggevo questa inchiesta sui giapponesi, sono molto preoccupati il governo giapponese, cioè perché ormai tanti giapponesi vengono definiti erbivori, cioè di fronte al sesso dicono, ma anche i più giovani, anche i ragazzini, gli adolescenti, i giovani e le giovani, soprattutto i maschi, dicono il sesso una fatica inutile. Dici che Berlusconi potrebbe mai diventare giapponese? Io penso che già molti italiani della mia generazione, quindi diciamo dai 40 ai 60, che sei erbivoro. Io non sono erbivoro, ma ha detto molti hanno spostato la libido altrove. Se tu pensi al numero dei gourmet, dei 45enni che si trovano e parlano solo di cose da mangiare. È vero. Poi di quelli che sono diventati esperti di vino, di quelli che sono fanatici della fitness, ciclisti e giardinieri. Sono tutti modi di spostare la libido. Una cosa sul referendum, la professoressa Della Valle sarà d'accordo con me, spero, ma sono sicuro di sì. Il plurale è referendum. È una parola ormai diventata parte della lingua italiana, come curriculum, e quindi dire al plurale referenda e curricula, cioè rispettando il neutro latino, è ridicolo. Vero, secondo lo trovo me anch'io. Io terrei referendum e così via. Ho ancora 30 secondi per dire una 17 secondi. Sì. Bastano. Io credo che la grande forza di Berlusconi sia stato di diventare il complice di questo paese, di tutti noi. Lui è una soluzione ambulante, gli ha detto: io sono il vostro complice. Ecco, tra complicità e disgusto esiste una linea di confine, e noi lo capiremo nella prossima settimana se questa linea è stata superata, e per lui è vitale. Credo che questo sia un passaggio decisivo. Non ho mai detto questo e certamente non lo dico perché ho scritto un libro su di lui. In anteprima assoluta, grazie Beppe Severgnini, la pancia degli italiani, con le sue dichiarazioni, non il suo libro, ormai conosciutissimo. A presto Beppe, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.